La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Da quando l'Italia ha cominciato visibilmente a disfarsi, i cittadini, la stampa, i mezzi di comunicazione, tutti, deplorano giustamente il disfacimento dei partiti che la rappresentano, la cui opera, ahimè, è sotto gli occhi di tutti. Però mi piacerebbe qualche volta che parallelamente si cantassero anche le lodi del Partito Radicale, perché comunque un'alternativa in Italia c'è sempre stata. Ci sono ignorati e indistruttibili i radicali, ai quali dobbiamo le leggi più civili del nostro paese, come il divorzio, eccetera. In pochissimi ne parlano, anche per i giornalisti, uno è Furio Colombo. I radicali continuano a occuparsi veramente dei cittadini, del fine vita, dell'ingresso nella vita, delle carceri. Per le carceri continuano a denunciare, continuano a digiunare. È un peccato, mi ricordo che emozione quando per un soffio Emma Bonino non fu eletta governatrice del Lazio. E al suo posto andò la Polverini e le conseguenze le abbiamo viste e le paghiamo e le pagheremo noi. Per me è una grande felicità e un grande impulso non perdere il contatto con la mia coscienza, vedere Pannella con la sua coda bianca al vento che non indietreggia di un passo rispetto alla sua battaglia. Rita Bernardini, Irene Testa che si battono per lo scandalo delle carceri. E volevo raccontare l'ultima iniziativa. La settimana scorsa il Partito Radicale ha indetto 4 giorni di scioperi della fame, battiture e silenzio per il diritto di voto dei detenuti e per l'amnistia. E giovedì 22 c'è stata la battitura, ovvero nel carcere di Regina Coeli. Mentre i carcerati battevano da dentro, battevano appunto contro le porte, da fuori sono arrivati i radicali che avevano mandato questo comunicato. Armati allora di pentola, coperchio e cucchiaio, fa il possibile per raggiungerci in via della Lungara davanti al carcere romano. E mi risulta che questa cosa è andata molto bene e che un sacco di gente è accorsa con le pentole, i cucchiai e hanno fatto un grande dissonante ma concorde concerto di solidarietà con i carcerati. È un'iniziativa importante perché intanto c'è qualcosa di giocoso nella disperazione e poi perché fa rumore. Perché c'è un tale silenzio intorno a questa cosa e che almeno artigianalmente da una stradina romana si levi questo rumore di pentole, questa cosa così domestica, mi sembra una delle bellissime iniziative del Partito Radicale. E visto che parliamo di carceri, vorrei parlare anche di Carmelo Musumeci, che sta scontando l'ergastolo ostativo e ha mandato una comunicazione dal titolo «Stavolta dico no, parola di uomo ombra». Carmelo Musumeci in carcere si è trasformato in un altro uomo, ha studiato, si è laureato in legge, ha discusso il dottorato, è diventato scrittore, ha pubblicato dei libri e continua a battersi perché questa situazione, come dicono i radicali, ben giustamente di illegalità dello Stato italiano rispetto alle carceri, abbia a finire. Il comunicato di Musumeci riguarda questo. Carmelo era detenuto nel carcere di Spoleto, dove, scrive lui, aveva avviato un trattamento positivo di recupero sociale, didattico e lavorativo, ed è stato trasferito a Padova in maniera inspiegabile e, secondo il comunicato di Carmelo, ciò viola la legge, in quanto che esiste l'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario che dice: «Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza della famiglia. E inoltre si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti in ordine alla destinazione». E invece viene mandato a Padova, che già per la famiglia che sta nel centro Italia è già un problema. A Padova lui si è subito iscritto, dato che ha capito una volta per tutte e fino in fondo che nati non fummo a vivere come brutti, si è iscritto subito alla facoltà di filosofia. Però, come non fosse abbastanza lontano, creando disagio, lontananza dalla famiglia e anche dalla sua tutor, Nadia Bizzotto, che anche lei abita in Umbria, adesso c'è il rischio che lo trasferiscano in Sardegna, in queste carceri nuove che finalmente sono state costruite, e per riempirle vogliono mandarci i più pericolosi. Ma Musumeci pericoloso non è, perché è all'ergastolo. Il vero risultato è privarlo della sua famiglia. Ora, chi ci ascolta sa cosa penso della terra sarda e dei suoi abitanti e di come li consideri il più nobile vivo altrove del nostro paese, però se ci vai da libero, non se ci vai in galera. Perché per i familiari, la moglie, i figli, i nipoti, la sua tutor, arrivare dal centro Italia a Tempio Nuncis o a Sassari Bancali, sedi delle nuove carceri, è un'impresa ottocentesca e costa molti soldi. Parliamo del caso di Carmelo, perché riguarda anche molti altri. Gianluca Nicoletti aveva dedicato una puntata di Melog alla situazione delle carceri. Aveva intervistato Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, e Susanna Marietti, che ne fa attivamente parte. E fuori onda Patrizio parlava di Carmelo e diceva, appunto a proposito del trasferimento in Sardegna, diceva: detenuti come Carmelo sono una risorsa per il carcere, un esempio importantissimo e anche una presenza fondamentale per i compagni di pena. E diceva Patrizio: accanirsi contro di lui significa smascherare la bugia che il carcere sia inteso come strumento di ravvedimento e di recupero. Concludo con le parole di Carmelo Musumeci, perché il suo comunicato si intitola "Stavolta dico no". E quindi, considerando che ho l'ergastolo ostativo e che devo morire in carcere, ho il vantaggio di non essere ricattabile e posso permettermi il lusso di ribellarmi e difendermi da quei funzionari che non rispettano la legge. Lo giuro, questa volta mi opporrò, con resistenza passiva, confermata ai passeggi, nei corridoi e nei locali, dove sarò spostato durante la vita quotidiana dell'istituto, e non posso che vincere perché non ho più nulla da perdere. Carmelo Musumeci. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Voglio chiedere scusa a Vito Nardiello, ma con tutta l'anima, perché avevo letto in trasmissione una lettera che mi aveva scritto su Facebook e lui mi ha rimproverata di essere stata scorretta, perché si trattava di una lettera privata e non voleva che fosse letta alla radio. Allora io ho detto a Gloria: ma tu guarda il Nardiello, mi scrive su Facebook e poi dice che era privata. E lei si è messa a ridere. Per scusarmi ti devo dire tutta la mia ignoranza. Io credevo che una lettera su Facebook fosse pubblica, che tutti potessero leggerla. Poi Gloria mi ha spiegato che non è così. Già un amico anni fa aveva provato a spiegarmi come funziona Facebook. Io avevo capito soltanto che non era una cosa per me. È troppo. Non sono pronta, non in senso tecnico, perché quello lo so fare anche una scimmia. Non sono pronta ad avere rapporti con centinaia di persone, anche se intendo il fascino di questo mercato dei rapporti un po' suc, un po' borsa, che è Facebook. Capisco il fascino della infinità delle combinazioni. Alla fine è un gioco d'azzardo. Ci vogliono nervi saldi, saper saltare nel vuoto e anche l'arte di barare, di scoprire chi bara. Però resto una donna del Novecento, quando gli amici ancora si toccavano. Erano entità corporee e sapevi che Alessandro Chiappini è veramente lui, non è Andrea Viali travestito o magari Gloria Guerrera che ha cambiato identità in Facebook e ridacchia. Ai miei tempi ci si amava e ci si detestava di persona. E non lo dico con la superiorità irritante del passatista, ma lo dico semmai col rimpianto di chi non riesce a sperimentare tutte le invenzioni e le tentazioni del suo tempo. Eppure qui c'entra l'età, caro Vito, perché i vecchi oggi vengono da un'altra galassia. C'è anche una bellezza straniante in questo, perché quando un vecchio riesce a usufruirne, anche semplicemente una ricerca su internet, tu che hai trottato per le biblioteche, che hai mangiato gli acari di mezzo mondo e che ti sei dannato per un testo che non sei mai riuscito a trovare, adesso, seduto a casa tua, susciti la biblioteca di Babele. Oppure, non so, vedi un film perduto tutto intero che appare su questo tuo quadernino di vetro. E quando vai in treno, invece del valigione di libri che ti curva la schiena, con un iPad e dentro ne hai 10.000. Ma quello che per i miei nipoti, che sono bambini, sarà ed è la forma del mondo, e li usano senza meraviglia, il nonno invece si accosta con spirito magico, come un prodigio. Sai, io ne sento a fondo l'impietà e il miracolo. Insomma, Vito, io spero che tu mi creda, anche se oggi dire "non l'ho fatto apposta" intanto è molto sospetto, poi fa ridere, visto che tutti quelli che sono stati scorretti o ladri lo sono a loro insaputa, case all'insaputa, sacco di Roma all'insaputa, 'ndrangheta al nord all'insaputa e via dicendo. E scusami, ti prego, se nella risposta ti ho preso un po' in giro, però mi sono presa in giro pure io, quindi siamo pari. È che nella tua lettera io ci ho visto un pretesto umoristico, cioè uno che scrive a una donna dicendo ti amerei, peccato che sei vecchia. Oh, questa poi è la sintesi, scusami, tu l'hai detto in modo molto più fine e grazioso, però era una tentazione comica irresistibile e difatti non ho resistito, ma per giocare con te, non contro. Tu non sai come ci hai messo di buon umore, ti vogliono bene in redazione, pure i miei parenti. E poi non solo, ma a parte la mia voglia di ridere, il fatto è, Vito, che tu avevi ragione. Tu hai scritto la verità. Tu hai parlato come parla un uomo onesto che dà un peso alle cose vere. Hai parlato come un pelle rossa, che se si deve prendere una donna, mica se la piglia vecchia. E che se ne fa? Non è buona né per masticare il cuoio, né per fare figli. E fra un po' muore. Tu hai ragionato come ragionerebbe un sano contadino. Tu hai ragionato come ragionava l'urone di Voltaire, il pelle rossa protagonista di questo breve romanzo di Voltaire che si chiama L'ingenuo. L'urone che è l'unico esempio di limpidezza in una società corrotta, che intende sempre il contrario di quel che dice e che è il più intelligente perché non ha la mente zeppa di pregiudizi, quindi vede e dice le cose come stanno. Per riparare all'offesa, io ne leggerò dei brani in tuo onore, Vito. L'urone, detto l'ingenuo, sbarca sulle coste della Bassa Bretagna e, per un talismano che porta al collo, viene adottato dal reverendo Kercabon, il quale crede di riconoscere in lui il figlio del fratello morto nelle Americhe. Quindi l'urone viene iniziato alla religione cattolica e gli vengono fatti leggere i testi e lui si appassiona oltremodo al Vangelo. Ma, al contrario dello zio prete, lui vuole davvero seguirlo. E quando si accorge che i cattolici nulla fanno di quello che è scritto nel libro, crea scompiglio in quella piccola società, che peraltro è affascinata da questo giovane di grandi qualità. E, per esempio, quando viene ammesso al sacramento della confessione, lui confessa i suoi peccati. Poi però pretende che anche il catecumeno confessi i suoi. E quello non vuole, e allora lui discute, testi alla mano, ma come qui c'è scritto? E visto che non vuole, quasi gli mette le mani addosso. E poi, mano a mano, che apprende delle proibizioni della legge, sia religiosa che civile, si scandalizza. Dice, ma qui dovete essere dei veri delinquenti per aver bisogno di tante precauzioni. Poi viene battezzato e avrà per madrina la bellissima signorina di Saint-Yves, di cui l'urone si innamora e ne è riamato. La signorina di Saint-Yves è affascinata dalla bellezza, ma soprattutto dalla purezza di questo giovane. E lui è talmente onesto che quando le chiede «Vuoi sposarmi?» e lei risponde di sì, lui le salta nel letto. Tutti urlano «La signorina di Saint-Yves per prima, pazzo, ma che fai?» E lui dice «Io sposo la signorina di Saint-Yves, perché al mio paese è così il matrimonio». Ma gli spiegano che qui mica è così semplice, anzi nel suo caso è complicatissimo, perché visto che la ragazza è stata la sua madrina di battesimo, le leggi religiose impediscono che possano sposarsi. E sì, potrebbe anche essere, ma ci vuole una dispensa dal Papa. E quando gli spiegano chi è il Papa, dove sta e via dicendo, lui si indigna, trova impraticabile, ridicolo e anche immorale che uno faccia 400 leghe per andare in un paese straniero da uno sconosciuto che deve decidere della sua vita. E qui, per quanto nella vita Voltaire potesse detestare Rousseau, qui è proprio il buon selvaggio che viene fuori non ancora guastato dalla civiltà, che dà lezioni di buonsenso e di rettitudine naturale ai cosiddetti civili. Comunque l'urone decide di andare a Parigi per ottenere la dispensa dal re, che almeno è molto più vicino del Papa. Però cade in una serie di intrighi, per cui appena arriva nella capitale viene arrestato, un intrigo di preti, viene coinvolto il potentissimo Père Lachaise, confessore del re, perché Voltaire scrive L'ingenuo nel 1767, ma lo ambienta ai tempi del Re Sole e con questo escamotage parla in verità del suo tempo, in cui regna Luigi XV. E quindi l'urone viene arrestato, gettato in una segreta e morirebbe in prigione se la signorina di Saint-Yves, che lo ama davvero, non corresse a salvarlo. E come può una ragazza che non è mai stata a Parigi, che è sempre vissuta nel suo paesino, senza mezzi e senza appoggi, fare qualcosa per il suo amato, con la sua bellezza. Il signore di Saint-Poinge le propone l'eterno mercato, quello di Tosca, quello di sempre. Vieni a letto con me e io te lo libero. Lei ne rimane desolatamente sconvolta, dice di no, poi, dopo tanti tormenti, alla fine accetta. E l'urone viene liberato. I due ragazzi si rincontrano, lui la ama più di prima, ma lei è cambiata, lei non fa che piangere. Il caso del Pelle Rossa viene conosciuto a corte, il re gli offre titoli e pensioni e gli si spalanca una grande carriera alla corte del Re Sole. Tutto sembra avviarsi a lieto fine, salvo che intanto la signorina di Saint-Yves si è uronizzata, ovvero la franchezza, la limpidezza di lui l'hanno contagiata. E lei non si rassegna all'idea di avere accettato lo scambio col suo corpo, che per lei è sacro, in quanto appartiene al suo amato. E mentre si festeggia la liberazione dell'urone e il prossimo matrimonio, lei morirà di dolore e di vergogna. E verrà a piangerla anche il suo seduttore, il signore di Saint-Poinge, che è stato la causa della sua morte, il quale, sentendosi ed essendo colpevole, promette la sua protezione all'urone. E l'urone accetta. Non è più un buon selvaggio, è diventato un pessimo cortigiano. C'è stato questo travaso morale. Come lei si è convertita all'onestà, lui si è convertito al fango della mondanità, della convenienza e dell'ascesa sociale. In questo video tu non c'entri niente, c'entri soltanto nella prima parte, quando ancora l'urone ci piace e siamo sempre dalla sua parte, perché smaschera l'ipocrisia. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Salve Barbara. Amo un uomo da circa 9 anni. Lo amo follemente. Ma spesso mi accorgo di sentirmi insoddisfatta. Ma essendo io una tipa molto autocritica, spesso mi sono chiesta se dovessi o meno mettere in discussione il sentimento che ho per lui. La risposta è no. Sono riuscita a capire che il problema sono io, autodefinendomi spesso destinata a soffrire, in quanto corro per ottenere ciò che una volta ottenuto non mi interessa più. Sarò mica vittima del mio cervello. Un caldo abbraccio, Susy. PS. Hai un letto in più lì al faro? Senti, Susy, diamo un peso alle parole. Tu dici io amo follemente quest'uomo. Ma lo sai che cosa vuol dire follemente? Che non si discute. Che sei in un vortice, che sei posseduta, che tremi al pensiero di non rivederlo fra mezz'ora, che hai paura di perderlo, che lui è presente in ogni pensiero e azione. Follemente non è dubbiosamente, è totalmente. Quando si ama follemente, non è, come dicono tanti, che la razionalità vada in vacanza. No, anzi, è ben presente ed è tutta al servizio di questa passione. C'è un modo più semplice di dire le cose, che ci rischiara nelle ultime tue righe. Tu hai ottenuto il suo amore e non ti interessa più. Sei vittima del tuo cervello solo perché sei rimasta indietro, ingabbiata in quella formula «io amo follemente», mentre invece sei in corsa e lo hai già superato. Questo è il segno della inutilità delle mie risposte. Ogni lettera ha dentro la sua soluzione. Basterebbe rileggerla. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Ora leggerò un brano tratto da un romanzo scritto da me che si chiama Il ritorno dei mariti, uscito da Mondadori nel 2006. È la storia di Delia, che questa donna ha lasciata dal marito con figli, suoceri a carico, che ha un negozio di merceria. E ha questo figliolo, Mao, che è un bugiardo colossale. Lei aveva urgenza di pagare una bolletta, altrimenti le staccano la luce in negozio, e ha dato i soldi per la bolletta a Mao, pregandolo di correre subito a pagarla, appena il distacco. E il ragazzo sta tornando a casa. Siamo all'inizio degli anni 90. Mao, il bugiardo, ha 18 anni e frequenta la terza liceo. Lui è tornato a casa. La madre si affaccia in cima alle scale. «Hai pagato le bollette?» «Sì, mamma, ho fatto appena in tempo». Entrando, Mao butta il giubbotto su una sedia. Dalle tasche cadono le bollette e qualche banconota da 100, smascherandolo. Delia, la madre, si china a raccoglierle, desolata. «Oh, Mao, era importantissimo. Ma perché non le hai pagate?» «Mamma, mi hanno sbattuto lo sportello in faccia. Ho fatto una corsa disperata, ho rischiato la pelle. E tu, invece d'essere contenta che sono salvo...» «Me lo potevi dire, però. Ma perché dici tante bugie?» «Mao, sincero, io non dico le bugie. Le bugie dicono me.» «La madre, è colpa mia, vero?» «Uffa, mamma, sei megalomane. È colpa tua di tutto. Se c'è una cosa che odio, è essere scoperto. Lo capisci, no, come mi sento?» «Sì, ma adesso mi avranno tagliato la luce.» «Mamma, domani c'ho pure l'esame. 2000 pagine. E tu mi fai una scenata.» «Ma quale scenata?» Delia parla piano e sotto sotto è dalla parte del figlio. Riconosce in lui le sue stesse bugie, tutte propiziatorie, sostituto della bacchetta magica, burla e visione più che inganno. Come sempre nei momenti difficili, Mao si chiude in bagno. Solo lì si sente in salvo. Mentre è intento in una scrosciante funzione che spruzza fuori e dentro, vede davanti a sé sul muro una lettera fissata con lo scotch. «Mi ha scritto un'altra volta. Questo vizio non lo perderà mai.» Legge: «Caro figliolo, la moralità comincia tirando l'acqua al cesso. Non ci importa dunque che la mamma ci consideri solo un piscione senza fantasia? Come i cessi pubblici, ove si gareggia nell'indecenza, macchie giallo denso bruttano l'orlo della tazza e le moschine verdi, amiche delle lordure, volteggiano per la stanza, con un effetto rattristante per la mamma. Ella si dice, con altri non lo farebbe. Dunque, è proprio la mamma la pattumiera di ogni incuria? Non vogliamo invece sedurla e davanti a lei apparire come smaglianti angeli, prima che eroici, puliti, attenti a non lasciare come nostra unica traccia nel mondo un rigagnolo di piscio, e pensare che è così bello accudirsi decentemente, così di soddisfazione il gesto con cui ci chineremo a lavare il water, assaporando la casta gioia di chi, usando i servizi dopo di noi, non avrà a schifarsene né a maledirci. Prova dunque, caro figliolo, a cancellare dietro di te croste, umori e peli, e te ne troverai di sicuro più contento. La tua mamma.» Pentito, ma non redento, intanto fa come sempre. Si guarda bene dal tirare l'acqua, butta l'asciugamano per terra, eccetera. Ma sente il bisogno di essere buono, di fare qualcosa per la madre. Ha deciso. Stasera si studia. La madre si affaccia alla stanza di Mao, chino dietro una pila di libri, intensamente concentrato. «Ma che hai fatto? Hai speso i soldi delle bollette?» «Io? Mancano 300 euro. Che fine hanno fatto?» «Mao, con tetra autorevolezza, ti prego, non chiedermi niente, non stasera.» Come spiegare quella mente annebbiata dal ruolo materno che fuori della scuola, senza premeditazione, ha incontrato l'amico Tony per caso, suo fornitore abituale, che aveva un nero da leccarsi i baffi? La madre non si muove dalla porta. Ci siamo. Alle lettere pedagogiche segue sempre un sermone. Proprio ora, con tutto quel che ha da fare. La madre, con lo sguardo perso: caro mio, fare un figlio. Lì per lì non ci pensi, lo fanno tutti. Ma poi capisci che è un atto temerario. Dai la vita. Cioè metti uno in una condizione dalla quale non sai come scappare nemmeno tu. E dai, non ci pensare, mamma. Ma lei, per essere madre, una bisogna che è matta o è cattiva. Beh, ormai l'ho fatto. Mamma, pietà, un po' di rispetto, ma proprio stasera? Già, che ti parlo a fare. I figli sono come gli amanti, guai a corrergli dietro. Se ne va. Finalmente Mao può continuare la sua opera. Non stava così gobbo sul tavolo per studiare. La madre l'ha interrotto mentre si confezionava una canna con la nuova roba di Tony. Vuole darsi coraggio prima di affrontare quei libri che aspettano dritti, in piedi, di schiena, di essere almeno una volta aperti. In vita sua ne ha letto uno solo, I dolori del giovane Werther, perché si riconosce nel personaggio. Vado matto per quell'ozioso che passa il tempo a parlare d'amore e quando sarebbe l'ora di mettere la testa a posto, pur di non andare a lavorare, si spara un colpo. Ma perché sono così bugiardo? Perché ci sono nato. Il mio unico senso dell'onore è tener fede alle bugie. Sono capace di tutto per dimostrarle. Bugia, more geometrico dimostrata, come Spinoza. E poi dicono che sono ignorante. Sarebbe ora di volgersi ai libri, ma all'ultimo momento qualcosa lo salva. Il talismano che protegge i moderni dal pensiero, dalla riflessione, dalla feconda solitudine e dallo studio, il telefono cellulare. Mao si attacca al telefonino e chiama Stella, la sua ragazza. Ha voglia di un orecchio tutto per sé, di compatirsi all'infinito, di piangersi addosso tutto spiano, di assolversi anche delle bassezze a venire. Non le chiede nemmeno come sta e comincia subito a parlare da solo, a lungo, a lungo. Stella non riesce a piazzare una parola, finché si infila razzo nell'interstizio di una pausa e domani hai l'esame, sei pronto? Dovrei studiare, ma non posso, ho una crisi d'angoscia. Ho troppo sofferto da piccolo. E lei, se non studi, soffrirai anche da grande. Ah beh, se ti annoio. Mao riattacca. A malincuore, ma non insoddisfatto. Ha guadagnato un'ora, cioè l'ha persa, parlando di sé. Si sente meglio. Apre un libro di testo, a caso. Dalle pagine gli viene il soffio gelido dell'ignoto. Si accende un'altra canna. Cade addormentato sul letto, a braccia aperte, con le scarpe e tutto. Il bugiardo Mao a un certo punto viene mandato da uno psicoanalista sperando che si possa curare. Lui appena arriva mette le cose in chiaro col dottor Guadagnino. Sia chiaro, dottore, io sono qui perché mi ci ha mandato mio padre. Lo psic, pure io, figurati, io volevo fare pilota. Dopo lunghi studi, il dottor Guadagnino aveva elaborato un metodo nuovissimo che rivoluzionava il rapporto coi pazienti. Invece di ascoltarli, raccontava i fatti suoi. Cominciò subito. Psic, ieri ho scoperto che le ho corna. Mi dispiace, ma... E io? Tu è inutile che parli. Siamo tutti incurabili. Io opero coltivando la nevrosi, come una piantina, finché si fa alta alta e di lassù si vede il mondo piccolo e si diventa santi. Fu una lotta. Si erano incontrati due chiacchieroni di pari forza e qualche volta lo psic dovette rassegnarsi e dare la parola a Mao. Quando parlava lui, il dottore si sdraiava sul lettino con gli occhi chiusi. Mao, i miei genitori, lo capisce quanto se ne fregano di me? Pagano lei perché mi ascolti al posto loro. Lo psic, dormendo, devi capirli. Entrare nella tua psiche li sconvolge. Mao, no, li annoia. Lei non sa quanto si annoiano genitori e figli. Lo psic russa, bzzz, e si addormenta. Mao continua a parlare. Facciamo chi soffre più di sensi di colpa a casa mia. È contagioso come l'influenza e ce lo passiamo. Lo psic continua a dormire. Mamma però esagera. Pensa sempre che sbaglia tutto. Vive di sensi di colpa. E io me ne approfitto. Sono pieno di rimorsi, ma me ne approfitto lo stesso. L'altro dorme. Mia madre mi ha tirato su con la paura della fine del mondo. È l'unica educazione che mi ha dato, ma completa. Dicono che le favole erano terrificanti. Non per me, che mamma mi raccontava i telegiornali. Beato Pollicino, che aveva un orco solo. Io non sapevo dove rigirarmi. Lui poi con Sassolini ritrovava la via. Ma io... Il buco Lozano ormai che l'hanno fatto, chi ce lo rattoppa? Stavo sempre sull'orlo della catastrofe e mi ci sento pure adesso. Lo psicanalista apre un occhio. Ma ci sei veramente? Questa è la realtà, mica è colpa di tua madre. Però non me ne risparmia una. Dice che non faremo in tempo a morire di sete perché le centrali nucleari scoppieranno prima. Psicanalista, vero anche questo? Mao. E mi dice, ho paura di questa umanità senza Dio. Ti immagini una catastrofe di deboli edonisti? Era altra gente quella dell'ultima guerra. Oggi siamo tutti assassini. Ha le idee chiare tua madre? Per un istante lo psic si slaccia dalle braccia di Morfeo e pronuncia alcune frasi. Senti ragazzino, per essere chiari, la fine del mondo è qui, ci siamo. L'umanità ci prova dall'inizio a distruggere la terra e i suoi abitanti, ma finora mancavano i mezzi. Prima delle grandi invenzioni, quando bisognava ammazzare a mano, era un bel lavoro. Adesso si fa subito. Non c'è più salvezza. La scienza è al servizio del massacro, della tortura, della prepotenza, del dolore. È l'onnipotenza dell'idiozia. Ciò detto, il professor Guadagnino richiude gli occhi come un giocattolo e ripiomba nel sonno. Mao, mia madre mi ha amato quando sono diventato bello, a 16 anni. Da piccolo ero tanto brutto che le facevo paura. Una volta, mentre mi allattava, vide che la fissavo e si mise a gridare «Carlo, aiuto, corri!» Lui corre tutto spaventato «Che c'è?» E lei «Il bambino mi guarda!» Ero così infelice che appena ho avuto l'uso di ragione ho cominciato a mangiare «Che ha detto, dottore?» «Io, niente!» Ero diventato così grasso che a 4 anni ho sfondato il pavimento, a 5 hanno dovuto allargare le porte, a 6 papà sbottò «Facciamo qualcosa, è un mostro!» Lo psic, io non ho figli, che pacchia. Mao, ma poi non ne fecero niente. Mi abbandonarono davanti al televisore. Papà era troppo occupato a fare l'artista, mamma a stargli dietro. Ho passato l'infanzia davanti alla TV, una mano al telecomando, l'altra nella Nutella. Lo psic nel sonno, quanto è buona! Mao, mangiavo sempre, avevo paura di morire di fame. Lo psicanalista, mezzo addormentato, ci sarà stato pure un motivo fondante. Sì, quando ero piccolo, un Natale, per povertà, i miei genitori mi hanno mangiato i fagioli della tombola e questo ha schiantato ogni mia sicurezza a venire. Lo psicanalista russa. Mao, spendo molto perché sono ignorante. I miei non mi hanno insegnato mai niente. Così, stando nella tenebra, conosco un solo divertimento, spendere. Ho frantumato una fortuna e non ce n'è traccia nella mia stanza. Sogni poveri, come me. Meno uno, ricchissimo. Essere amato da Clelia. Vuole sapere chi è? No! Lo psicanalista si sveglia, esterrefatto, perché non ne vuole sapere niente. Ma lui continua. Io, se fossi un altro e mi incontrassi, mi innamorerei di me, al primo colpo. Clelia, invece, niente. Uffa, costa Clelia! Sbadiglia lo psicanalista. Mi dovrebbero dare la pensione come vittima di un'educazione distratta e permissiva. Che ne pensa, dottore? Dio, quanto parli! Dottore, ma a me me ne frega solo di me. Sarò malato. Qua sono tutti buoni, sociali. Io a volte fingo, ma in cuor mio lo so che ci sto solo io. Lo psic sveglio, pure io, ti giuro. Me ne frego di tutti. Mi credi? Sì. La guardiana del faro. Il signor Luigi Ferrara Santa Maria è molto arrabbiato con me perché ha comperato e letto il libro di Francesco Pacifico, Storia della mia purezza, di cui avevamo parlato qui, e gli è sembrato immondo. E scrive: il personaggio è la bassezza del genere umano, un carciofo incommestibile, un misogino pervertito travestito da chierichetto. Il testo ho finito di leggerlo solo per essere certo del mio convincimento. Poi l'ho gettato nella spazzatura. Se invece di masturbarsi alla follia il personaggio avesse fatto commercio del suo seme alla banca del seme, avrebbe almeno ricavato una qualche utilità. E qui c'è un'idea incondivisibile di dovere utilizzare persino l'onanismo, che è dispersione in sé. Povere quelle donne che avessero avuto un ovulo fecondato da quel seme. E qui la maledizione di Luigi Ferrara Santa Maria si estende fino a un'eventuale e non esistente progenie di un personaggio che tra l'altro ha inventato. La ritengo responsabile di opera di marketing di un testo ignobile. L'autore non deve essere da meno. Senta Luigi, intanto mi è molto piaciuta la sua impostazione animistica, che spesso è anche la mia nel leggere i libri. Non cose esterne a noi, ma incontri, rapporti, odi e amori. Solo che io non ho parlato bene di Piero Rosini, il protagonista del libro, ma del libro. E nemmeno l'autore lo crea per elogiarlo. Anzi, ha un tale disprezzo per il suo personaggio da ucciderlo in un incidente stradale senza nemmeno concedergli la grazia di un vero finale. Storia della mia purezza è la storia dei guasti di una educazione cattolica fondamentalista e Piero Rosini ne è il risultato. L'autore non ce lo propone come esempio da seguire, semmai da fuggire. E poi sta la nostra scelta, c'è magari qualcuno che si sarà identificato e lo adorerà. E però nella sua dannosità il Rosini è letterariamente dannatamente simpatico. È come lo Zeno Cosini di Italo Svevo nella coscienza di Zeno. Anche lui è un uomo doppio e dannoso. Gli scrittori, Luigi Ferrara Santa Maria, non sono lì per assicurarci, ma per entrare nell'uomo fino agli estremi abissi. Piero Rosini sciupa tutto quello che tocca, trasforma l'amore in tortura, esercita su Clelia, che lo ama, un potere spietato attraverso la negazione. È sfortunato e colpevole. Ma è un santo davanti al personaggio di un mio libro, Delirio, l'impudente Diego. E se leggesse quello, che cosa mi direbbe? Mi riterrebbe responsabile di ogni suo gesto, anche se di qualcuno poi si sa, sono sempre gli indistinti confini, come nelle Metamorfosi di Ovidio, tra il personaggio e l'autore e il lettore. Io, per il suo detestato Rosini, provo il sentimento ambiguo che si ha per i personaggi negativi che in qualche modo inconfessabili ci rispecchiano anche se non ci somigliano, e che direbbe di Lucien de Rubempré di Balzac. Ad ogni modo, mi spiace che i nostri gusti non coincidano. però se si sente così truffato, io mi offro di ricomprarle il testo di Pacifico, regalandolo magari a qualche ascoltatore, oppure potremmo fare un baratto con un altro testo che le risulti meno indigesto. Ci chiami e forse ci metteremo d'accordo per uno scambio favorevole per entrambi. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, 2 anni fa ho lasciato il mio fidanzato Roberto, coetaneo, con il quale stavo da 8 anni, per un uomo di 25 anni più grande di me e neanche bellissimo. Amavo il mio ragazzo, ma quest'uomo, separato dalla moglie, mi ha travolto. Era entrato nella mia vita in modo totale e i miei genitori non sono mai stati d'accordo con la mia frequentazione. Dopo 1 anno e mezzo di amore intenso e di vita meravigliosa, scopro che si messaggiava con mia sorella Anna, più piccola di me, guardando il telefono di lei. Leggo in un SMS che si sarebbero incontrati il giorno dopo in un parco pubblico qui a Roma. La seguo. Mi prende un colpo. Li sorprendo dietro una fontana a baciarsi come amanti assatanati e sto malissimo. Vorrei intervenire, ma non ci riesco. Allora decido di seguire lui appena si lasciano per parlargli e metterlo di fronte all'evidenza. Dopo 1/4 d'ora si salutano e lo seguo. Arriva presso un chiosco bar e si incontra con una donna bionda sulla 40. Si avvinghiano come l'edera in un bacio appassionato, ma il colpo più grande mi prende quando, avvicinandomi furtiva per sorprenderlo e fargli una piazzata, scopro che era la moglie. Che orrore! Non ho avuto il coraggio neanche di urlargli in faccia la mia rabbia. Che occasione ho perduto per fare un gran casino lì e allora. Sono 20 giorni che sono sparita e non rispondo più al telefono. Lo vorrei vedere morto. Ho fatto a botte con mia sorella, che alla fine si è scusata e mi ha sostenuto. Anche lei è incazzata e stiamo progettando insieme una vendetta. Che dici? Cosa possiamo fargli per rendere la pariglia? Non ti nascondo che ripenso tutte le notti al mio Roberto e che bel rapporto tranquillo avevamo, anche se tu dici sempre che l'amore vero è solo per gli audaci. Giacinta, disperata e delusa. No, Giacinta, che lo chiedi a me? Le vendette vanno fatte su misura. Se non conosci l'uomo, se non sai cosa lo ferisce, come fai a immaginare una cosa ben fatta? Senza conoscere la persona restano le vendette brutali, quelle della mafia, la clava. E non mi sembra il caso. Tu e tua sorella siete capitate con un professionista. Questo signore, con le sue chiacchiere, vi ha rigirato tutte e due. Ma non del tutto, perché lui ha preso e ha dato. Tu hai conosciuto, grazie a lui, l'ebbrezza di cambiar vita, di lasciare questo ragazzo che adesso rimpiangi, ma di cui allora dovevi essere annoiatissima, visto che sei scappata con l'altro. Poi, per 1 anno e mezzo, hai beneficiato del colorito, delle endorfine, della creatività che dà solo l'amore. E insomma, hai incontrato un bravo illusionista che è riuscito a farti vivere tutto questo. E allora, in ogni campo, bisogna riconoscere l'eccellenza. C'era uno zio mio, marchigiano, che era stato truffato in un vicolo di Napoli, in un modo molto ingegnoso. Lì per lì se l'ha presa moltissimo. Però alla fine dovete riconoscere che quei mariuoli avevano fatto una messa in scena così ben fatta, un pezzo di teatro così perfetto che forse valeva il prezzo del biglietto. Ti ha dato molto quel farfallone e ti ha dato anche l'amaro dono di sapere che tua sorella è pronta a tradirti e ad amoreggiare col tuo uomo alle tue spalle. Magari adesso vi volete più bene di prima. Comunque è buono a sapersi. Adesso state preparando la vendetta e questo vi unisce, ma molto presto cominceranno i rinfacci. Già vi siete menate, ma che secondo me non sarà l'ultima volta. E non vi venisse in mente di far la spia alla moglie, e che fa parte della clava, gli fareste un gran favore, gli ravvivereste il matrimonio. Guarda, è scientifico. Se una donna sa che il marito è un amante, si riaccende tutta. Per un attimo, magari poi lo lascia, ma lì per lì si riaccende. E figuriamoci se di amanti ne ha 2. L'unica vendetta è l'ironia. Scrivete una lettera, un atto unico, un fumetto, un collage, qualcosa di comico sul giorno in cui l'hai pedinato e l'hai beccato sul fatto. È un classico tema da Pochad. Divertitevi sul personaggio di lui che ci fa una figura ridicola. E se no, dimenticate. Avete giocato e avete perso. Ho 28 anni. Il primo grande amore con Cesare è durato 8 anni ed è finito quando ci siamo accorti che non era più così grande. Ne ho incontrato un altro, ma è durato poco. Lui mi ha rifiutata, ha rifiutato il mio amore dicendo di non meritare tutto quello che gli offro, non potendolo ricambiare. Si sente stupido, perché dice di avere sempre sognato un rapporto così chiaro, aperto e intenso con una donna, ed ora che lo può vivere realmente, lo scaccia. Fammi capire questo uomo. Questi uomini alla continua ricerca di un sogno che quando diventa realtà non sanno fargli fronte e fuggono vigliaccamente. Cinzia. Ma cara Cinzia, io sono costretta a essere dura più di lui. È vero che lui sognava questo tipo di rapporto, ma non con te. Il suo sogno non aveva la tua faccia. Il suo sogno non sei tu. Non è fuggito vigliaccamente, è fuggito inevitabilmente. Sai che è successo? Che non è successo. E basta, è una legge crudele come la chimica. La reazione è stata da una parte sola, e quindi nulla. Non è vero che amor canullo amato amar perdona, ovvero che l'amore è sempre corrisposto. È molto bello in poesia, ma non è vero. Se così fosse, noi vivremmo non in terra, con tutti i nostri pesi, ma vivremmo nell'Eden, prima della caduta. È successo come quando accendi la luce, e non c'è la corrente. È così. E allora sembra che tutto il mondo sia buio, e magari per sempre. Ma no, Cinzia, solo quella stanzetta, dove ci siete voi due. Aprire, uscire, trovarne altre stanzette, altri interruttori. Come hai saputo serenamente ammettere la fine del precedente amore, adesso devi registrare un incontro mancato. Questa è la strada dei sentimenti. Impara a sorpassare o sei perduta. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.